Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Vaccino Italia in campo perché sia di tutti e non di pochi, dice il ministro degli esteri Di Maio. Conte, sull'emergenza puntiamo al dialogo con le regioni. In Gran Bretagna, primo bilancio ufficiale, il Covid ha fatto il triplo delle vittime dell'influenza di stagione. Trump in isolamento alla Casa Bianca. Il mio contagio è una benedizione a tutti gli americani, il farmaco usato su di me. Crisi anche nel Kirghizistan. Il presidente e il premier sono scomparsi, chiuse le frontiere. Contratto dei lavoratori metalmeccanici, trattative interrotte, i sindacati proclamano 6 ore di sciopero. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. Dunque, avete sentito la dichiarazione del ministro degli esteri Di Maio, l'Italia in campo perché l'accesso al vaccino sia equo e venga distribuito anche ai paesi a basso reddito. Poco dopo è tornato a parlare della gestione dell'emergenza anche il presidente del Consiglio Conte, che ha detto: il dialogo con le regioni è il nostro punto di forza. Da oggi, lo sapete, in vigore l'obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso in tutti i luoghi diversi dalla propria abitazione, con alcune eccezioni. Preoccupa il governo la crescita del contagio, ieri oltre 3.600 nuovi casi, e anche la crescita dei ricoveri che dall'inizio di settembre ad oggi sono raddoppiati. Mascherina obbligatoria in tutta Italia anche all'aperto, unica eccezione quando è garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. La nuova regola entra in vigore nel giorno in cui, dopo mesi, il numero di nuovi contagi torna a superare quota 3.600, anche se a fronte di un nuovo record di tamponi. Esentati dall'obbligo di mascherina all'aperto, i bambini al di sotto dei 6 anni, chi fa attività motoria e chi è affetto da patologie e disabilità non compatibili. Obbligatoria resta nei luoghi chiusi, ad eccezione delle abitazioni private, anche se il governo chiede del massimo rigore quando si è in compagnia di familiari e amici. Possibilità per le regioni di attuare provvedimenti più restrittivi, mentre eventuali allentamenti dovranno essere concordati con il ministro della Salute. Ma con le regioni c'è ampia condivisione, assicura il premier Conte parlando al Festival dello Sviluppo Sostenibile alla Farnesina. Grande disponibilità a lavorare col governo nazionale, a non lasciarsi assolutamente distrarre da polemiche, lavorare quindi tutti verso un obiettivo comune. Da Conte anche l'annuncio di una gara per 5 milioni di test rapidi a disposizione dei medici di famiglia. Sui vaccini invece parla il ministro degli esteri Di Maio: dovranno essere garantiti a tutti e non a pochi. E intanto assalto ai drive-in per fare i tamponi, code chilometriche di auto in tutta Italia e lunghe attese per i risultati. A Ventimiglia sono intervenuti anche i carabinieri. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. In Gran Bretagna il coronavirus ha provocato un numero di vittime superiore di 3 volte rispetto a quelle per polmonite e influenza messe insieme nei primi 8 mesi di quest'anno. La stima ufficiale, la prima in questo senso, arriva dall'Ufficio per le Statistiche Nazionali: 48.168 i decessi dovuti al Covid, 13.619 quelli a causa della polmonite. A livello globale è ancora molto alto il numero di casi in India, nuovi casi anche negli Stati Uniti. Il presidente Trump, in isolamento alla Casa Bianca, seguito da uno staff di medici, continua ad attaccare la Cina, responsabile del virus, e allo stesso tempo promette di distribuire a tutti gli americani il farmaco con il quale è stato curato, il Regeneron a base di anticorpi monoclonali. In Europa anche Francia e Spagna sono alle prese con la seconda ondata. Ancora non si è arrivati ai lockdown di marzo-aprile, che tutti assicurano di voler evitare, ma diversi paesi europei arretrano davanti alla nuova ondata di coronavirus. A preoccupare ora nel vecchio continente, oltre al Regno Unito, che registra picchi superiori ai 14.000 contagi quotidiani, sono sia la Francia che la Germania. In Francia ieri si è registrato un nuovo record con oltre 18.700 contagi. Il virus circola più veloce e si dice pronto a nuove restrizioni, il presidente Macron. A Parigi oggi è scattato di nuovo il cosiddetto piano bianco, il piano d'emergenza che consente di mobilitare tutte le risorse degli ospedali in presenza di una crisi. Nuovo allarmante record di contagi anche in Germania, oltre 4.000 casi in 24 ore. Mai così tanti dalla seconda metà di aprile, quando il paese era in lockdown. E intanto la Commissione UE ha firmato un contratto d'appalto congiunto da 70 milioni di euro con la società farmaceutica Gilead per 500.000 trattamenti con il Remdesivir, uno dei farmaci più usati contro il Covid-19, l'unico autorizzato nell'UE per il trattamento dei pazienti che necessitano di ossigeno. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora andiamo all'estero. L'arresto di Patrick Zaki, lo studente egiziano fermato all'inizio dell'anno all'aeroporto del Cairo in circostanze non chiare, è stato prolungato ancora di 40 giorni da un tribunale del Cairo. Zaki, lo ricordiamo, ha 28 anni, circa un anno fa era andato a vivere a Bologna per il suo dottorato. Altri 45 giorni di carcere, Patrick Zaki, studente egiziano all'Università di Bologna, è dunque lontano dalla libertà. Il suo calvario va avanti ormai da 8 mesi con il rinnovo della detenzione preventiva di volta in volta. Una condizione che in Egitto riguarda 35.000 detenuti su 115.000 in attesa di un regolare processo. Le accuse per l'attivista egiziano di 28 anni sono presunta istigazione alla violenza e propaganda sovversiva per un post su un social network che però i legali del ricercatore affermano essere falso. Le ultime volte che è stato possibile vederlo, il giovane è apparso molto dimagrito e provato, soffre d'asma e rischia molto in carcere anche per la diffusione del coronavirus. Secondo Gasser Abdel Rezak, direttore dell'EIPR, organizzazione egiziana per i diritti personali per cui Zaki ha lavorato, l'Italia non sta muovendosi con forza, così come non lo ha fatto per Regeni, per non rompere l'equilibrio con l'Egitto. Tante le manifestazioni di piazza oggi in Italia, a Milano, Torino, Roma, Bologna e in tante altre città. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Kirghizistan, tensione dopo le contestate elezioni di domenica scorsa. La Russia si dice preoccupata della situazione, ma giallo soprattutto su dove si trovino il presidente e il primo ministro. Piomba nel caos un'altra delle ex repubbliche sovietiche, il Kirghizistan, da dove è arrivata oggi prima la notizia che il presidente Yembekov e il primo ministro Boronov erano scomparsi e poi la smentita di una fuga di Yembekov attraverso l'ufficio stampa della presidenza kirghiza, secondo il quale il presidente è nella capitale Bishkek e sta negoziando con le controparti. Da una località nascosta, però, evidentemente, perché i due sono scomparsi dalla scena pubblica ormai da lunedì, quando sono scoppiate le proteste per il voto parlamentare di domenica scorsa, che ha assegnato il 25% dei consensi ciascuno ai due partiti più vicini al presidente. Esclusi dal Parlamento, i partiti di opposizione hanno subito denunciato brogli e i manifestanti hanno fatto irruzione nella sede del Parlamento, in uffici governativi, e liberato l'ex presidente Atambayev, ex alleato di Yembekov, accusato poi di corruzione e incarcerato. Il presidente ha dapprima gridato al golpe, ma alla fine la commissione elettorale ha annullato la consultazione. La tensione però non è scemata. Le frontiere nazionali nel frattempo sono state chiuse. Laura Bettini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, torniamo negli Stati Uniti. Derek Chauvin, uno dei poliziotti incriminati per la morte di George Floyd, l'uomo afroamericano ucciso il 25 maggio scorso durante un arresto a Minneapolis, è stato liberato dopo il pagamento di una cauzione pari a $1 milione. Daniele Biacchessi. Minneapolis, Minnesota, 25 maggio 2020. L'episodio che accende la miccia dell'ultima rivolta americana viene impresso in una serie di video agghiaccianti. Mostrano l'afroamericano George Floyd ammanettato e steso a terra con il ginocchio del poliziotto premuto sul collo per 8 minuti e 46 secondi. Le ultime parole pronunciate da Floyd sono «I can breathe, non riesco a respirare». David Chauvin, l'agente che provoca la morte di Floyd, viene licenziato e arrestato, accusato di omicidio di secondo grado, ma poi esce proprio in queste ore dal carcere dopo il versamento di una cauzione di $1 milione. Il carcere non lo si augura a nessuno, però trovo la decisione, pur prevista dalla legge americana, quantomeno sconcertante dal punto di vista dell'immagine di una nazione che va verso le elezioni presidenziali del prossimo 3 novembre. I casi delle morti di George Floyd, Breonna Breonna Taylor, di tanti altri afroamericani entrati anche nel dibattito tra Harris e Pence di stanotte, impongono ora una seria riflessione dei candidati presidenziali sull'operato della polizia lungo le strade d'America e sulla rete di protezione che godono personaggi come David Chauvin, le cui sorti giudiziarie sono sempre in qualche modo favorevoli. Una riforma non più rinviabile. 6 ore di sciopero a sostegno del rinnovo contrattuale, lo hanno indetto i lavoratori metalmeccanici. Dopo che si sono interrotte le trattative sul rinnovo del contratto dei lavoratori metalmeccanici per il periodo 2020-2022 con la controparte, lo sciopero è stato indetto da FIOM, FIM e WILM. Sono 5,3 milioni gli immigrati presenti in Italia, lo dice il rapporto 2020 della Fondazione Caritas Migrantes presentato oggi. Stando ai dati raccolti in questi mesi di emergenza Covid, per esempio, non esiste alcun allarme sanitario ricollegabile alla presenza degli stranieri in Italia e questo è solo uno degli allarmi non fondati secondo il rapporto Caritas. Sentiamo. Non esiste nessun allarme sanitario collegabile alla presenza di cittadini stranieri in Italia. Non c'è nessuna invasione, anzi si conferma la tendenza dei migranti ad andare altrove e il 54% dei migranti è di fede cristiana, non musulmana. Sono solo alcuni dati raccolti nel rapporto Caritas Migrantes che sfatano i luoghi comuni o smontano le fake news più frequenti. Infine, la Fondazione accoglie con soddisfazione il recente via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo decreto sicurezza. Il direttore generale della Fondazione, Gianni De Robertis. La correzione dei decreti sicurezza, che il rapporto saluta come un passo positivo, è nella direzione giusta, cioè quella della regolarizzazione, quella di assorbire questa sacca di irregolarità. Io ho visto, andando in Germania, c'è proprio la differenza, salta agli occhi, nel senso che le persone che arrivano in Germania vengono immediatamente avviate in un percorso di integrazione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso una notizia appena battuta dalle agenzie: è stato assegnato il premio Nobel per la letteratura 2020 assegnato alla poetessa americana Louise Gluck per la sua, leggiamo, inconfondibile voce poetica che con austera bellezza rende universale l'esistenza individuale. Ne parleremo ancora più avanti nella seconda parte di Effetto Giorno, cercheremo di capire di chi si tratta, il ritratto di questa poetessa americana. 349-238-6666, torniamo tra poco dopo le informazioni sul traffico, ripartiremo da questa notizia: crisi economica e ansia collettiva da Covid fanno lievitare la richiesta da un lato di sostegno psicologico, dall'altra di droghe sul mercato dello spaccio. 349-238-6666, a tra poco. Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Vaccino, Italia in campo perché sia di tutti e non di pochi, dice il ministro degli esteri Di Maio. In Gran Bretagna, primo bilancio ufficiale, il Covid ha fatto il triplo delle vittime dell'influenza di stagione. Contratto dei metalmeccanici, trattative interrotte, i sindacati proclamano 6 ore di sciopero. Premio Nobel per la letteratura alla poetessa americana Gluck. Dalle mascherine alle multe alle regioni, ecco cosa cambia con la proroga dello stato d'emergenza. Per gli esperti l'ansia collettiva fa crescere il consumo di droghe, ne parliamo tra poco. In diretta con Effetto Giorno, cari ascoltatori, proviamo a spiegarvi che cosa cambia da oggi nella gestione dell'emergenza Covid. Ieri, lo sapete, è stato prorogato dal Consiglio dei Ministri lo stato d'emergenza fino al 31 gennaio. Questo vuol dire che il governo può gestire la situazione attraverso DPCM, decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ordinanze del Ministero della Salute. È quello che è avvenuto fino ad oggi. Continuerà così anche fino alla fine di gennaio. Le opposizioni sono critiche, dicono che era una misura non necessaria. Qualcuno parla di limitazione della democrazia, addirittura di dittatura sanitaria. E questo il filo conduttore è stato di molte manifestazioni in capitali europee. La più importante c'è stata a Berlino. Di fatto in Italia questo stato d'emergenza ha consentito di istituire zone rosse, di bloccare attività commerciali ritenute a rischio contagi, di attivare acquisti di materiale in deroga alle norme esistenti. Rinasce da oggi il Comitato Operativo della Protezione Civile, così come torna la cabina di regia tra il governo e le regioni, ma anche i comuni, che dal 15 settembre hanno potere specifico di ordinanza. Le regioni però potranno solo inasprire le restrizioni nazionali, oppure per poterle alleggerire dovranno farlo d'intesa col governo. Ci sarà un nuovo DPCM a partire dal 15 ottobre, perché però le misure non cambiano in realtà, è stato soltanto introdotto l'obbligo della mascherina, deve essere sempre a portata di mano, all'aperto va indossata quando non si può continuativamente garantire l'isolamento rispetto ai non conviventi, quindi va usata su strade, piazze, davanti alle scuole ovviamente, no se uno si trova in un luogo appartato. Mascherina obbligatoria però anche al chiuso. Questa è la novità in tutti i luoghi diversi dalla propria abitazione, a meno che non si sia da soli in una stanza. Non va indossata in auto, in bici, in moto, se si fa sport o attività motoria. Cosa dicono i numeri del contagio? Perché siamo arrivati a questo stato d'emergenza? La crescita dei casi è iniziata dalla fine d'agosto, è cresciuto il numero dei ricoverati, da settembre a ottobre è raddoppiato, siamo a 3.782, così come sono cresciuti i numeri delle terapie intensive, oggi siamo a 337 persone. Molte di più di agosto, siamo circa al 10% di quella che è stata la fase più acuta ad aprile, quando c'erano 4.000 persone in terapia intensiva. Oggi c'è un allarme in più, è di questo che vi vogliamo parlare, perché la crisi economica e anche questa ansia collettiva da Covid, secondo gli esperti, fanno lievitare il disagio mentale delle persone, la richiesta di aiuto psicologico e anche il ricorso alle droghe. Ne parliamo con il dottor Riccardo Gatti, direttore del Dipartimento Interaziendale Dipendenze LAST Santi Paolo e Carlo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, di Milano. Allora, è vero che state registrando un aumento delle persone intercettate dai servizi che si occupano di droga, di tossicodipendenza, di questo genere di disagio? Abbiamo avuto una flessione, un po' come tutti i servizi sanitari, proprio nel periodo stretto del lockdown, quando non si poteva uscire di casa e quando c'era anche molta paura per la situazione. Però da una parte i pazienti che avevamo in cura sono rimasti in cura perché i nostri servizi hanno funzionato anche nelle fasi più strette dell'emergenza. Dall'altra parte abbiamo visto in più l'arrivo anche di altre persone, spesso persone che vivevano un po' ai margini o che avevano difficoltà nel procurarsi droghe o perché non avevano più soldi o perché erano in una situazione difficile, e quindi sono arrivati ai nostri servizi probabilmente prima di quando avrebbero potuto arrivare in una storia normale della loro situazione di uso di sostanze. E poi persone che sono francamente in difficoltà, ed è una difficoltà nuova. Noi siamo di fronte a una situazione nuova, non abbiamo mai attraversato una situazione di epidemia. È un fatto assolutamente inedito, certo, nuovo per tutti. Questa cosa qui è molto destabilizzante, è arrivata gente che forse non sarebbe arrivata in quel momento, ma io temo che arriveranno più persone in futuro con droghe illecite, ma anche con quelle lecite. L'alcol è molto portata di mano, c'è ansia, c'è difficoltà nel condividere i rapporti con gli altri, ogni cosa che fai ti pare pericolosa, oppure anche se in fondo non te ne curi dentro c'è qualcosa che ti rode, insomma, qualcosa che ti rode dentro, certo, anche chi non ha manifestazioni magari estreme, aperte, apparenti, di disagio, però questa vita continua di paure, di limitazioni, di privarsi della socialità, privarsi in molti casi anche di alcune fonti di reddito. Non dimentichiamoci che c'è anche una grossa crisi economica che stiamo vivendo. Tornerei su questo tra un attimo, sull'ansia in generale, però vorrei tornare invece subito su un caso estremo, che è un caso proprio ieri a Milano di una giovane donna di 34 anni che lavorava come manager in una banca, è stata ritrovata morta nel suo appartamento per una overdose di eroina. Sta tornando anche proprio il consumo di questo genere di droga, l'eroina? È possibile. possibile, perché i mercati delle droghe sono molto attenti agli eventi e possono recepire facilmente che c'è bisogno di sedazione, c'è bisogno di placare le ansie. L'eroina è un prodotto perfetto per questo, se non fosse che poi provoca gravi dipendenze, se non fosse che poi provoca grossi problemi. Ma rispetto alla quasi proposta compulsiva di cocaina che c'è stata in una Milano iperattiva, lei capisce che in una Milano che è ansiosa e ha paura, proporre sedazione non è poi così strano. Detto questo, durante il lockdown però l'osservatore attento avrebbe potuto capire che mentre i consumi occasionali si spegnevano perché mancavano gli eventi, mancava la movida, mancavano le occasioni, certo, quindi normalmente si consumano sostanze, il mercato della droga continuava senza grandissimi problemi, anzi le scorte che non consumava nel mercato del consumo occasionale erano disponibili per clienti abituali, ma questi clienti abituali non erano quelli di strada, sono quelli che ricevono con una delivery molto efficiente il prodotto in modo riservato, magari a casa o nei pressi dell'abitazione, hanno continuato a riceverlo tranquillamente anche durante il lockdown, figuriamoci adesso. Ed è una popolazione che non si vede, perché normalmente noi quando pensiamo alla droga, se non siamo dell'ambiente, pensiamo a Rogoredo, pensiamo alla movida, ma quella è una parte. È solo, diciamo, una parte, certo. Sì, è una parte marginale, è un mercato molto forte questo, e non si regge sui pochi soldi di una raccolta fatta per strada o su un mercato solamente occasionale, ha bisogno di qualcosa di stabile. E c'è tutta una parte di consumatori, diciamo così, integrati, che non mostrano, anche se magari hanno i disturbi da uso di sostanze, come li chiamiamo noi che ci occupiamo di cura, sì, e che vivono con in equilibrio per un certo periodo con la sostanza, ma non è che rischiano meno degli altri. Certo, perché tutto è garantito da questo equilibrio dato artificiosamente dalle sostanze. Io la ringrazio, dottor Gatti della AST di Milano, grazie per essere stato con noi. Abbiamo dunque affrontato anche questo aspetto, un allarme rilanciato proprio da esperti come dottor Gatti in questi giorni, in queste settimane di ripartenza a settembre, dove c'erano grandi aspettative per un ritorno a una quasi normalità, no, delle nostre vite, ma ci stiamo scontrando contro invece tutta una serie di limitazioni, di cambi di panorama e di orizzonte. Adesso invece ci occupiamo della notizia di cui abbiamo dato conto poco fa, che riguarda il premio Nobel per la letteratura. Era oggi l'attesa per l'assegnazione e la nostra Alessandra Tedesco, ciao Alessandra, ciao Maurizio, ci racconta tutto, quel che sa, non so quanto, su Louise Gluck. Chi è Louise Gluck? Allora, Louise Gluck effettivamente è un nome poco noto in Italia, diciamo che anche quest'anno l'Accademia di Svezia è un po' spiazzato rispetto ai nomi più famosi come Margareta Atwood o l'eterno candidato Haruki Murakami. Lei è una poeta o poetessa, che dir si voglia, americana. In Italia è stato pubblicato credo un paio di volumi, soprattutto quello che aveva vinto il Pulitzer nel 93, da noi in Italia è arrivato nel 2003, ed è un poema che si intitola L'Iris Selvatico. Lei ha vinto anche appunto premi notevoli negli Stati Uniti, ho citato il Pulitzer, ma anche il National Book Award. La caratteristica di Louise Gluck è quella di scrivere delle poesie che tendono un po' a fotografare il quotidiano, diciamo cose apparentemente banali che però nella sua scrittura, che ha comunque uno stile molto controllato, assurgono a livello appunto di poesia. Grazie per ora Alessandra Tedesco, approfondiremo credo il corso della giornata, insomma poi con critici letterari e le opinioni anche dei lettori, l'importanza di questa figura, di questo premio Nobel per la letteratura. Torniamo adesso invece alla questione del contratto dei lavoratori metalmeccanici, perché è un tema che riguarda 1,5 milioni di lavoratori. C'è uno sciopero indetto dai sindacati FIM, FIOM e WILM, perché le trattative con Federmeccanica si sono interrotte. La nostra Anna Marino ha intervistato Francesca Redavid, segretaria generale della FIOM, poco fa, anzi no, questa è una voce raccolta poco fa in conferenza stampa, proprio nel momento in cui si annunciava la rottura della trattativa. Per ora, sentiamo. Questo noi lo facciamo per riaprire il tavolo di trattativa, perché noi contratto. Vogliamo il contratto e pensiamo che se dentro questa trattativa non entrano in campo i lavoratori e le imprese, che hanno stato, come dire, sempre quasi che stiano a guardare quello che succede, il contratto ha bisogno di una spinta per riaprire il tavolo, per aprire un tavolo che abbia voglia di discutere, non solo di fare delle affermazioni che lasciano tutto stagnante, come noi dobbiamo uscire dallo stagno. Ed è per questo che appunto la grande campagna di informazione che mettiamo in campo. E questo dunque è l'annuncio dello sciopero dei metalmeccanici nei prossimi giorni, 6 ore, 13 e 28 minuti. Noi facciamo un piccolo break, poi torniamo tra poco con tutte le altre notizie, anche con una buona notizia, perché la favolosa batte la fastidiosa. Parliamo di olive, di xylella e di una specie che sta dando buoni risultati in Puglia. 349-238-6666, a tra poco. Effetto giorno. Ecco le notizie di oggi. Premio Nobel per la letteratura alla poetessa americana Louise Gluck. Conte, nella gestione dell'emergenza, il dialogo con le regioni è il nostro punto di forza. Trump in isolamento alla Casa Bianca. Il mio contagio è una benedizione, dice a tutti gli americani il farmaco usato su di me. Crisi anche nel Kirghizistan. Presidente e Premier sono scomparsi, chiuse le frontiere. In Puglia i primi risultati positivi nel contrasto alla xylella, la varietà favolosa a raccolta in questi giorni, resiste al batterio, ne parliamo tra poco. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo in diretta con Effetto Giorno alle 13.35 minuti. I vostri messaggi al 349-238-6666. Ci sono messaggi che chiedono di spiegare l'età media dei ricoverati in terapia intensiva. Alcune di queste domande forse sottendono che, dando l'età media, dovremmo in qualche modo fornire un'informazione necessaria a dare, come dire, un'inclinazione più o meno pesante al quadro che stiamo vivendo, visto che parliamo di stato d'emergenza. Ha ragione, non ho detto l'età media, adesso il dato qui davanti a me non ce l'ho, così come non c'ho davanti a me il dato che un altro ascoltatore chiede delle regioni dove si concentrano i ricoveri. Domani lo facciamo, promessa. Dopodiché c'è un altro ascoltatore, Simone Della Lucca, che dice: anche il settore alimentari fa 4 ore di sciopero domani per il rinnovo del contratto nazionale. Noi abbiamo parlato dei lavoratori metalmeccanici che scioperano per sostenere la vertenza nel rinnovo del contratto dopo la trattativa si è interrotta con Federmeccanica. Adesso di un'altra crisi, che è quella di Alitalia, si occupa Alberto Orioli. Il punto di Alberto Orioli. Vi ricordate l'Alitalia? Sembrava un problema risolto. Commissario, poi una newco pubblica per organizzare il rilancio e magari nuove forme di partecipazione di soci privati in un secondo momento. Ebbene, per adesso c'è solo un commissario disperato, Giuseppe Leogrande, che ieri al Parlamento ha chiesto di intervenire perché in cassa sono rimasti 260 milioni e per sopravvivere ne servono subito almeno altri 150. Il progetto della newco ha una dote di 3 miliardi in verità, per ora bloccati in attesa degli eventi. PD, 5 Stelle e Italia Viva stanno litigando su chi deve comandare nel nuovo CDA. Una brutta questione da Prima Repubblica, blocca l'azione del presunto governo anticasta. Sono in gioco 11.500 dipendenti, per gran parte dei quali è già stata chiesta la proroga di un altro anno della cassa integrazione. Nel frattempo Alitalia ha abbandonato Malpensa, ha perso 50 milioni a settimana e ha prosciugato in un attimo i 500 milioni dati dal governo a Natale e ha già impegnato i quasi 200 milioni avuti come indennizzo per il Covid. L'Europa ci chiede visione del futuro per gestire la montagna di denaro che riceveremo dall'Unione Europea. Con la vicenda all'Italia però rischiamo di non avere occhi nemmeno per un tragico presente. Alle 13.38, come anticipato, parliamo di olio e di olive. È tempo di raccolta, secondo le prime indicazioni dei produttori c'è stato un calo importante del 36% della quantità, ma la qualità sarebbe molto buona quest'anno. I cali di produzione maggiore al sud, meno 45% in Calabria, meno 17% in Sicilia, meno 12% in Campania, addirittura meno 51% di produzione in Puglia, dove, come sapete bene, pesa anche la questione della xylella fastidiosa, il batterio che tramite un piccolo insetto passa da una pianta all'altra, ne blocca la linfa vitale, la pianta rinsecchisce e muore. Prendo a prestito un titolo sui giornali di oggi, sul Corriere di oggi, che dà questa notizia, diciamo questa notizia di cui parliamo adesso, la speranza che diventa realtà dopo 2 anni di attesa con la favolosa che batte la fastidiosa. È con noi Cosimo Primiceri, socio dell'azienda agricola Primolio di Casarano, in provincia di Lecce. Buongiorno. Buongiorno a lei. Che cosa, di cosa stiamo parlando? Della favolosa. La favolosa è una varietà che voi, primi credo in Puglia, avete osato impiantare al posto degli alberi che si sono malati. Puglia no, Puglia è una parola grossa, i primi nel Salento. Diciamo, nel Salento, dopo il disastro della xylella. Specifichiamo che stiamo parlando del Salento, che tra l'altro... No, perché voglio fare differenze, ma perché in Puglia c'è da altre parti che è stata. Certo, stiamo parlando, infatti è giusto dirlo, della zona dove il cuore del problema della xylella fastidiosa. Attorno a lei ci sono molte piante malate, immagino ancora adesso. Ormai 100%, ormai 100%. 100%. Ci sono rimaste un po' di piante di leccino, che poi è un'altra pianta anche, diciamo, resistente al batterio, e poi quelle piante che stiamo piantando adesso in favolosa, che ad oggi, anzi a ieri, con la prima raccolta abbiamo visto i primi frutti, e questo ci dà una speranza di un futuro migliore. Ecco, adesso parliamo anche del raccolto, che so che nel vostro caso sta andando bene. Facciamo però un passo indietro. Come arriva la variante favolosa in quella zona del Salento? Cosa succede? Perché questa è una pianta su cui si è interessata anche il CNR, credo che ci sia un brevetto anche, perché è una pianta che effettivamente resiste alla xylella fastidiosa. Questo avviene perché il CNR decide di fare un campo sperimentale la zona parabola Lecce, un paese vicino a Casararo, e furono messe delle piante di mora per capire se c'erano delle varietà resistenti, e poi uscì questa varietà che si dimostrò resistente a batteri, e più poi c'è qualche piccolo campetto che ho dato, una roba di poche piante, dove poi sono stati fatti degli studi e quindi ha dimostrato che ancora oggi non secca. Voi quante piante avete piantato? Questo è stato un campo sperimentale fatto insieme a Olivetti d'Italia, che è il consorzio, sì, che detiene anche il brevetto, voglio dire, che gestisce il brevetto della favolosa. Sì. Uno dei, da cui è stato un consorzio di produttori. Siccome noi l'autorizzazione a rimpiantare dalla comunità europea l'abbiamo avuta il 21 giugno del 2018, sì, e decidemmo di fare questi 4 ettari come prova, diciamo, sì, circa 3.000 piante. Ecco, 3.000 piante. Lei ha dovuto fare tutto da solo o effettivamente, come stava accennando, c'è stato anche un aiuto, ci sono stati degli incentivi? Perché ricordiamo che stiamo parlando di piantare degli ulivi, di sostituire le piante ammalate e di, come dire, anche c'è stata la necessità di eradicare piante non ancora malate o malate per evitare che la xylella si estendesse, quindi diciamo un beneficio per tutta la collettività, quindi di lì la necessità di avere aiuto. Le abbiamo fatte con le nostre forze economiche. Solo con le vostre forze economiche. Agli primi. Adesso invece la Regione Puglia poi ha stanziato dei soldi che stiamo adesso utilizzando per avviare i nuovi campi, anche perché i 4 ettari, insomma, diciamo, era solo, io lo chiamo giardino, fra parentesi. È un giardino, è un esperimento, però l'esperimento è andato bene perché la pianta... Ieri sera abbiamo morito l'olio pure, quindi è uscito pure l'olio, abbiamo una resa eccezionale di 15 kg che... Facendo il paragone con le vecchie culture, sì, che avevamo noi, penso che in questo periodo tiravamo fuori 8-9 kg, quindi non quindi il doppio, dopo, quasi il doppio, quasi il doppio. Quasi il doppio. E invece per quanto riguarda la insomma la xylella, questo batterio che, come ricordavo prima, viene trasportato da un insetto, funziona così, no? E questo insetto... La sputa La sputacchina, esatto, che punge un ulivo infetto, incorpora lui il batterio, poi va su un altro ulivo, lo punge nuovamente, gli trasmette la malattia. La linfa si blocca, l'ulivo, i rami si seccano e la pianta muore. E questo è il paesaggio attorno a voi. Lei ha la consapevolezza, la coscienza adesso che effettivamente questa varietà favolosa è, diciamo, la riprova di quello che si sapeva già, insomma resiste effettivamente, non avete avuto nessuna pianta malata. Sono due anni che l'abbiamo piantata e oggi non so se cade, quindi significa che oggi resistono. Poi con queste situazioni, vedi Covid, insomma non è che il futuro, diciamo che il presente possiamo parlare, poi del futuro, però ad oggi è resistente, molto resistente. Abbiamo fatto anche l'analisi. Oggi non abbiamo trovato carica batterica. Potrebbe essere questa la risposta, diciamo l'arma definitiva contro la xylella secondo lei in Puglia, o il vostro è un caso isolato, siete un'isola felice? Assolutamente, ad oggi è l'unica arma che abbiamo. Spero che riusciranno altre varietà, diciamo, resistenti. Ci sono degli studi che si stanno facendo, perché poi sai, portare su una varietà poi è molto rischioso. Però ad oggi abbiamo queste due varietà, che sono il Leccino e la Favolosa. E teniamocele strette, Cosimo Primiceri. Grazie per essere stato con noi. E beh, insomma, complimenti, congratulazioni, buon lavoro. Il lavoro buono l'avete già fatto, scegliendo di sperimentare questo trapianto di ulivi della variante Favolosa che resistono alla xylella. 13:44, noi torniamo tra poco insieme a Giulia Crivelli, Effetto Mondo. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.